Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Mario Pellegrino. Nati con Nara Camice da oltre 30 anni. Diana Marino. Il mio guardaroba è disordinato in una maniera incredibile. Io la mattina prendo le prime cose, anche se non sembrerebbe, ma prendo le prime cose che trovo. Forse perché mi dedico più agli altri che a me stesso, cioè io vengo sempre in un secondo momento. La mattina deve durare 3 minuti, vestiti e essere a posto. Basta. Al mattino, non per fretta ma per abitudine, il tempo dedicato a scegliere i vestiti nell'armadio è poco. Perché Mario Pellegrino, stilista e cofondatore di Nara Camice, ama di più vestire gli altri che vestire se stesso. Una scommessa professionale come quella che con l'imprenditore Walter Anarratone fecero nel febbraio 1984, puntando e investendo tutto in un solo prodotto, la camicia. E oggi Nara Camice, con i suoi 250 punti vendita italiani e 150 esteri, con i suoi oltre 50 milioni di fatturato, può ritenere vinta quella scommessa. Ma è l'esperienza del settore che conta in questa sfida imprenditoriale e l'inclinazione coltivata fin dall'inizio. Prima c'era mia mamma che faceva una mezza sarta, diciamo. Allora la facevo diventare matta per confezionarmi questo, quell'altro. No, deve tagliarlo così, devi farlo cos'ha. Poi stavo facendo una scuola d'arte, sicché non c'entrava niente il liceo artistico, sicché io il mio futuro doveva essere restauratore. Ho deciso che forse non era il mio mondo. E per caso ho conosciuto un'azienda d'abbigliamento dove cercavano un disegnatore e sono entrato per caso a lavorare dentro come aiuto. Ho lasciato l'università appunto per continuare, perché mi piaceva questo mondo, non mi piaceva l'università ormai, l'architettura, anche se avevo fatto già diversi esami. Il mio sogno era vestire gli altri, non vestire me stesso. Decisivo il momento di incontro tra i tre fondatori. L'imprenditore milanese Walter Anarratone era forte infatti dell'esperienza decennale della sua famiglia nel commercio al dettaglio e lancia l'idea di aprire negozi in franchising specializzati in camice. Mario Pellegrino, titolare di passaggio obbligato, ed Enzo Pellettieri, titolare della camiceria E&G, iniziano con lui l'avventura di Nara Camice e inaugurano il loro primo negozio a Milano in via Monte Napoleone. L'incontro con il dottor Anarratone è nato nell'81. Noi ci siamo conosciuti perché io lo fornivo, perché lavoravo sempre in un'azienda di camiceria e lo fornivo di camice per i suoi negozi. Un giorno è venuta l'idea, vedendo che lui stava lavorando bene con le camicie, disse: perché non proviamo a fare un format nuovo, un negozio nuovo, vendiamo solo camicie? E così è nata la storia. Nel 1984 è stato aperto il primo negozio Nara Camice. L'azienda ha da subito iniziato a svilupparsi in franchising con l'apertura del negozio a Padova, seguito da una ventina di altri punti vendita in Veneto. Puntare su un solo prodotto negli anni 80 era già azzardato. Andare in controtendenza è stato però funzionale e vincente, grazie soprattutto a un forte senso pratico e commerciale. Tutti si buttavano a fare tutto, noi invece volevamo la specializzazione, proprio fare un articolo e fare tutto. Cioè, una persona che entra dentro un negozio deve trovare la camicia che ha bisogno, non trovare, andare a perdersi da una parte o dall'altra, anche perché vedevamo che negozi omnibus avevano sì il prodotto, anche la camicia, però potevano averne 3, 4, 5 modelli, poi si perdevano perché non c'era più niente. E allora noi davamo sia fantasie, sia righe, sia quadri, sia unito, davamo una scelta 360 gradi del prodotto per dire: possiamo trovare la camicia che va bene per noi. Tutta la decade tra gli anni 80 e gli anni 90 è anche il periodo in cui sono diventati famosi molti brand, e anche Nara Camice non faceva eccezione, quando si usava passare da Nara per vedere le novità e acquistare un modello visto in TV, indossato da Raffaella Carrà, Marcella Bella, Milly Carlucci e così via. L'inizio è stato molto positivo, perché avevamo fatto una camicia chiamata con i leoni. Era una camicia difficilissima, abbottonata dietro, con le pieghe davanti e con uno stemma di leoni davanti ricamato. È stato il nostro best seller per diversi anni. La gente veniva per comprare quella camicia, gente che tornava dicendo: l'ho consumata, ne voglio un'altra. Per noi era una soddisfazione immensa. tanti personaggi della TV, del cinema, vengono nei nostri negozi a comprare le camicie. Una grossa soddisfazione è stata vedere una fotografia di un giornale, c'era Lady Diana con la nostra camicia. Il punto vendita è il fulcro della strategia di comunicazione aziendale. Location in zone nevralgiche per lo shopping, come via Monte Napoleone o Corso Vittorio Emanuele a Milano, via del Corso a Roma, Oxford Street a Londra e così via. Arredamenti sobri, colori tenui, armadi a scomparsa e una luminosità in cui il prodotto spicca sovrano. E ancora oggi, il primo negozio in via Monte Napoleone, spiega Mario Pellegrino, è un biglietto da visita. Dovevamo essere presenti in via Monte Napoleone perché è un bigliettino da visita, è una pagina pubblicitaria, è una cosa che la gente che lavora nel campo dell'abbigliamento passa da via Monte Napoleone per vedere cosa c'è e cosa presenta Monte Napoleone. È il Monopoli proprio. Oggi che Nara Camice festeggia i 25 anni dalla sua nascita, la parte del leone la fa ancora la camiceria da donna, mentre l'uomo contribuisce per il 25%. Ma secondo me anche l'uomo vuole la sua parte. E siccome normalmente nei negozi che vendono camicie da uomo le vendono sempre classiche, noi abbiamo cercato di dare la camicia, la chiamiamo da discoteca, da tempo libero, elegantina un po' particolare. Ecco, abbiamo cercato di fare una cosa particolare che non si trovava negli altri tipi di negozio. L'insegna ha poi lanciato una linea Nara Maglie e una di accessori sotto il nome di Nara Idee. Nel 1996 però arrivano i momenti duri. La camicia scompare dalle passerelle dei disegnatori di moda, che preferiscono orientarsi verso altri capi d'abbigliamento, influenzando così i gusti del pubblico. Anche lo sviluppo del franchising subisce una battuta d'arresto, per poi riprendere quota insieme alle vendite intorno al 2000. Dopo la crisi del biennio 96-97, il marchio ha deciso di rilanciarsi proprio partendo dal restyling dell'immagine dei punti vendita. Non è stato un momento di reinventare qualcosa che non esisteva, perché se gli stilisti, se Armani o Versace dicono non va più la camicia, non è che tutte le persone in giro non mettono più la camicia, solo gli affezionati, quelli che seguono i grossi stilisti, ma noi non siamo un grosso stilista, noi siamo un brand che è alla portata di tutti. Nara Camice rafforza la sua presenza in America con nuove location a New York, San Francisco e Dallas e si prepara a sbarcare sui mercati emergenti di Brasile, Argentina e Cile. Ma il cuore rimane in Italia, con una costante sia nazionale sia internazionale, la posizione del negozio. Il sito produttivo è in provincia di Venezia, a Santa Maria di Sala, dove noi facciamo più che altro logistica, perché noi compriamo i materiali, poi li mandiamo in lavorazione con i nostri modelli e i nostri tessuti. I negozi devono essere sempre in ottima posizione, perché lei mi dice, ma perché 20 metri più in là non va bene? Allora, le faccio un esempio piccolo e banale. Genova era su una laterale della via principale, a 10 metri neanche dalla via principale. Ha cambiato posizione, è andata sulla via principale e il suo fatturato è raddoppiato. Nara Camice è stata anche pioniera, come racconta Mario Pellegrini, nella pubblicità solidale. Nel 99 compare il manifesto con la campagna a scopo benefico Io sono nata con la camicia, loro no, in collaborazione con UNICEF e con la top model Alec Wick come testimonial. Era una campagna che serviva soltanto per effetti benefici, non serviva per il marchio relativamente, perché questo non è che ha portato un riscontro pubblicitario, nel senso di dire abbiamo venduto di più perché era pubblicizzata, no. Non è che la gente l'ha capita molto, secondo me, forse non eravamo troppo presto. L'indossatrice, che appunto ci aveva parlato di questo programma che stava facendo, e l'abbiamo seguita. Anticipare i tempi e non seguire le tendenze è nel DNA di Nara Camice, ma anche in quello di Mario Pellegrini, che non si piega alla moda e fa le sue scelte, anche di fronte al bivio cravatta sì, o cravatta no? Io onestamente le cravatte non le ho mai adoperate, non posso essere cravatta sì o cravatta no, io sono sempre cravatta no, ma non c'entra col mio gusto personale perché non metto la cravatta proprio. Ho un armadio pieno di cravatte perché se viene avrò 150 cravatte, ma penso che di 150 ne avrò indossate 3 una volta forse. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.